Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. E allora, in una giornata e devo dire alcune sedute in cui i mercati sembrano, la prudenza non è mai troppa, ma essere un po' più stabili, certo i cali ci sono, sono anche consistenti, però complessivamente oggi l'indice è invariato a Milano, più 0,1 l'S&P MIB, in Parigi mezzo punto percentuale di rialzo, Francoforte invariata, Londra più 0,80, l'America più 0,80, sul Dow Jones, Nasdaq meno 0,15. Dicevo, in una giornata e in giornate in cui potrebbe essere che i mercati si stiano un attimo stabilizzando a questi livelli di prezzo, bassissimi per carità, lo ricordiamo, da inizio anno i cali sono nell'ordine del 50% sulle borse, per quello che riguarda Milano siamo al 48%. Tutti i riflettori, l'attenzione si sta spostando sugli effetti di questa crisi nell'economia reale. Ieri abbiamo parlato ampiamente della vicenda Citigroup, dei 50.000 licenziamenti, 14% della forza lavoro, anche di alcune iniziative, alcuni hanno detto ovvie, il minimo accettabile sui premi dei manager, che i manager di Goldman Sachs e di UBS che rinunciano ai bonus milionari. Di nuovo resta alta l'attenzione sia sul settore auto in America ma anche in Europa, con ipotesi di iniziative tedesche, nel caso specifico Angela Merkel, 1 miliardo di euro per la Opel controllata dalla General Motors, a sua volta azienda che è a un passo dalla bancarotta o comunque che versa in difficoltà finanziarie pesantissime. Dall'altro anche al settore complessivamente dato delle iniziative che può prendere il governo, in questo caso il governo italiano, sul fronte economico, e quindi le infrastrutture. Avremo in apertura proprio un approfondimento su come sta andando il settore delle costruzioni, settore per sua definizione anticiclico nel nostro paese soprattutto, ossia quando l'economia, il resto dell'economia frena, di solito il settore delle costruzioni va bene, e così ha fatto negli anni 2001, 2002, 2003. Adesso frena anche il settore delle costruzioni, quindi qualche preoccupazione c'è. Nel frattempo si attende, domani vi sarà il primo incontro, poi nel fine settimana l'altro incontro del Consiglio dei Ministri, si attende di capire meglio nel dettaglio il piano del governo, che vale 80 miliardi di euro, di cui 40 di fondi europei. Parte di questi soldi sono già previsti, vanno meglio spesi, altri potrebbero essere aggiuntivi, altri arriveranno dalla rete autostradale. È chiaro che una fetta importante di questo piano verrà dedicata anche alle opere infrastrutturali. E poi il commercio con l'estero. Adesso vi dirò il dato: a settembre ha tenuto bene il nostro commercio con i paesi fuori dall'Europa, ma anche e soprattutto con i paesi europei. Chiaro che settembre è un mese che falsa un po' l'analisi, perché non si erano ancora scaricate tutte le tensioni della crisi finanziaria, anche se la crisi finanziaria già stava mostrando il suo lato peggiore nel mese di settembre. Poi la vicenda Yahoo, le dimissioni di uno dei due fondatori, accusato di aver fatto saltare, di aver fatto perdere valore per gli azionisti, perdere valore agli azionisti per come ha gestito l'offerta arrivata a suo tempo da Microsoft. Questo è il motivo, al di là della forma, per cui uno dei due cofondatori di Yahoo oggi ha annunciato le sue dimissioni. Tra l'altro il titolo guadagnava tantissimo in borsa proprio dopo questo annuncio. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le notizie in breve. Allora, partiamo dai mercati petroliferi. Il petrolio è leggermente in rialzo a 55,4 dollari al barile. Dicevamo comunque delle borse. Questa mattina si è temuto il peggio sull'Asia, visto che Hong Kong ha chiuso con un calo del 4,5% e il Giappone del 2,3%. Per fortuna non vi è stata una conseguenza sulle borse europee. L'euro viaggia a quota 1,2644 nei confronti del dollaro. Vediamo i titoli. Molto bene in pregilo, più 7%. E anche qui c'è un ragionamento del mercato sul settore delle costruzioni. Telecom Italia più 3,4%, Eni più 3,1%, Terna più 3%, il 2,80% lo guadagna Mediolanum e il 2,4% anche Mediaset, l'1,6% il rialzo di Snam, Rete Gas e di Pirelli più 1,4%, l'1,3% lo guadagna invece Seat, pagine gialle. La peggiore tra i titoli a maggiore capitalizzazione è Unipol, meno 4,3, poi la Banca Popolare di Milano, meno 4,1, ST Microelectronics, meno 3,7, e come Prismian, Alleanza perde il 3,5, Unicredito perde il 3%, Intesa Monte dei Paschi, scusate, meno 1,8% in questo momento. Altri titoli sotto pressione, citiamo tra le altre cose Geox meno 2,9 e Luxottica meno 2,4%, A2A meno 1,80. Ancora Intesa San Paolo meno 0,7, Fiat meno 0,6 e UbiBank meno 0,8, mentre Fondiere perde l'1,2 per cento. La bilancia commerciale ne parleremo nella seconda ora, ma insomma a settembre il nostro deficit è salito a 2,6 miliardi, era un mese in cui il petrolio era ancora stabilmente sopra i $100 al barile, ma quindi è aumentato il nostro deficit, la differenza tra quanto riusciamo a esportare e quanto importiamo. Però la cosa più interessante è che il nostro saldo commerciale con i paesi europei è stato positivo a settembre più di quanto non fosse già stato a settembre del 2007, 690 milioni di euro rispetto ai 607 milioni di euro. E tra l'altro andavano a settembre molto bene la meccanica più 4%, i mezzi di trasporto più 4,7%, elettronica più 8%, siderurgia più 14%, alimentari più 17%, calzature più 4%, chimica più 7,7%. E particolarmente bene le nostre esportazioni a settembre verso la Germania più 9%, la Francia più 6%, la Russia più 9%, meno bene in Gran Bretagna e Spagna rispettivamente meno 7% e meno 10%, in Cina meno 7%, in Giappone un più 2%, anche in America un più 3%. Insomma, la lettura, poi chiederemo conferma ai nostri ospiti, ma la lettura prevalente è che finché c'è stata domanda internazionali, quindi finché l'economia non ha frenato bruscamente, le nostre imprese erano in grado di intercettare in maniera consistente la domanda di beni e servizi che arrivava da altri paesi esteri. Chiaro che quando invece frena tutta l'economia dei paesi più sviluppati è difficile che vada bene anche il nostro export. Vedremo comunque il dato di ottobre. Adesso apriamo la pagina relativa agli effetti e quindi alla narrazione di questa crisi finanziaria. Anche Barclays, infatti, oggi, dopo l'annuncio che ricordavamo di ieri di UBS e Goldman Sachs, ha deciso di non pagare quest'anno i bonus ai top manager. La banca britannica infatti non pagherà nessun bonus, anche perché tra le altre cose alle prese con un aumento di capitale da 10 miliardi di euro, 7 miliardi di sterline, dovuto a un insieme di svalutazioni, o meglio, come conseguenza di un insieme di svalutazioni che la Barclays ha portato a casa per aver investito in prodotti tossici. Allora, si è dimesso il cofondatore e attualmente amministratore delegato di Yahoo, Jerry Yang. Ha lasciato infatti la guida del gruppo informatico che è leader nel suo settore a livello mondiale, e Yang ha 40 anni, resterà nel consiglio di amministrazione, però insomma a questo punto formalizzerà col prossimo consiglio di amministrazione, quando arriverà il nuovo nome formalizzerà le sue dimissioni a livello ufficiale. Il titolo è schizzato in borsa anche perché il motivo per cui si è dimesso è il modo in cui ha gestito le avance fatte a suo tempo da Microsoft. Microsoft voleva comprare, fondersi con Yahoo, comprandola, e in quel periodo, a febbraio, quindi ve lo ricorderanno, il titolo era arrivato fino a $30 per azione, poi è rotolato quando i vertici di Yahoo hanno fatto capire che non avevano intenzione di fare l'accordo con Microsoft, è rotolato fino a $10, ieri valeva $10,6 per azione. E tra l'altro, a suo tempo l'offerta di Microsoft veniva considerata intorno ai $31 per azione, con un ammontare complessivo di $47 miliardi. Chiaro che con i tempi che corrono e con le vacche magre che vediamo adesso, forse l'offerta a febbraio EU poteva anche accettarla. Andiamo avanti con la cronaca della crisi finanziaria. Oggi il segretario al tesoro Henry Paulson ha ribadito che il piano salva finanza può agire, quello da quasi $800 miliardi, può agire a sostegno solo di un ampio gruppo di società finanziarie, ma non delle case automobilistiche. Questo è già un ultimo colpo di coda dell'amministrazione Bush, in netta divergenza con quanto invece vuole Barack Obama. Come abbiamo sentito anche ieri, Obama vuole lanciare un piano intorno ai $25 miliardi per aiutare le case automobilistiche. E che vi siano segnali di miglioramento sui mercati, perlomeno di una situazione che a questi prezzi bassi, bassissimi, ma si sta stabilizzando, lo ha detto oggi anche il numero uno della Federal Reserve, Ben Bernanke. Ha detto: ci sono segnali di miglioramento sui mercati, l'ho detto di fronte al Senato nel corso di un'audizione. Nel frattempo anche il Cremlino fa i conti sul danno che causerà la Russia nella crisi finanziaria e economica. Comunque per ora almeno €150 miliardi, questa è la stima, pari a €5.000 miliardi, fatta dal leader del Cremlino Medvedev, dicendo che tra l'altro questa stima potrebbe essere sbagliata per difetto. E sempre in tema di crisi, dopo il G20 di Washington, oggi a Trieste c'è stato un vertice tra Italia e Germania, presenti i due capi di governo, sia Silvio Berlusconi e Angela Merkel. Si è parlato anche della Russia, del rapporto Europa-Russia, ma in primo luogo della crisi economica. Nel giorno in cui, come ricordavo, in Germania circolano ipotesi di un piano di un aiuto da almeno €1 miliardo alla Opel in grossa difficoltà, e è €1 miliardo che tirerebbe fuori di fatto lo Stato tedesco. Il Presidente del Consiglio Berlusconi, visto che parlava con Angela Merkel, però ha toccato anche il tema del partner per l'Italia e ha indicato, cosa che aveva già fatto in precedenza devo dire, Lufthansa come il partner ideale. Ha poi anche parlato delle ipotesi e lo studio sul settore auto. Ascoltiamo questo passaggio. Abbiamo parlato del dossier all'Italia, il cancelliere ed io siamo d'accordo nel vedere con molto favore la possibilità di una collaborazione tra Alitalia e Lufthansa, e auspichiamo che questo possa avvenire. Per quanto riguarda invece gli interventi a favore dell'auto in Italia, no, non abbiamo parlato di questo, e per ora noi riteniamo che non si debbano fare interventi in questa direzione. Peraltro non lo escludiamo neppure, vediamo come si comporterà il mercato prossimamente, ma per quanto riguarda la situazione attuale non sono previsti per ora interventi in questa direzione. E sempre su Alitalia, il Presidente del Consiglio ha aggiunto che a Malpensa converrebbe Lufthansa, molti più punti di convenienza Lufthansa anche per la vicenda che riguarda l'aeroporto lombardo, mentre tra l'altro comunque Berlusconi ha aggiunto sulle alleanze internazionali bisogna chiedere a CAI. Ora non è un mistero che da molte fonti interne la CAI stia invece ragionando, ne parlavamo anche ieri, con più interesse verso Air France, anche per motivi contrattuali, cioè non ci serve da pagare la penale da un lato e non si dovrebbero sopportare i costi di una nuova, diciamo, integrazione di rotte e voli, visto che già di fatto in maniera molto concreta e formale Alitalia fa parte dell'alleanza SkyTeam con Air France e KLM. Però anche oggi 70 voli cancellati dopo la multa che ieri l'ENAC ha dato dall'Italia per il caos del 10 novembre. E tra l'altro oggi sono 70 i voli cancellati, mentre si sono incontrati il commissario straordinario dell'Italia Augusto Fantozzi e il numero uno della CAI Rocco Sabelli. Ricordo che la CAI ha messo sul piatto 1 miliardo di euro per acquisire la parte buona di Alitalia. L'incontro dovrebbe essere ancora in corso, non ho visto infatti altre dichiarazioni. In mattinata invece il commissario straordinario di Alitalia Fantozzi aveva detto: Alitalia taglierà 100 voli al giorno da qui alla fine del mese per colpa dei piloti che stanno mettendo in atto uno sciopero bianco con manifestazioni di puro sciacallaggio. E noi restiamo in tema di trasporto, ma in questo caso di infrastrutture, perché come dicevo in apertura ci saranno due consigli dei ministri e un comitato interministeriale per la programmazione economica, il cosiddetto CIPE, per mettere a punto da qui fino al fine settimana il piano, il cosiddetto piano anticrisi, che a questo punto sarà un decreto, per quello che abbiamo capito, che terrà dentro tutto, sia la parte che riguarda le banche, che la parte che riguarda l'economia reale, che i cittadini, che le imprese. E il primo giro di tavolo sarà fatto, secondo quanto si è appreso, domani mattina a Palazzo Chigi, una riunione interlocutoria. Il CIPE invece, che è quello che dovrebbe stanziare gli oltre 16 miliardi per le infrastrutture, si riunirà venerdì mattina, e sempre venerdì, da quello che si è capito, vi sarà anche un nuovo Consiglio dei Ministri. Quest'ultimo Consiglio dei Ministri dovrebbe essere quello in cui si andrà anche a approvare il pacchetto imprese e famiglie. Non è sicuro che questo si terrà venerdì pomeriggio, potrebbe infatti decidere il governo di farlo slittare di qualche giorno e quindi posticipare tutto il varo del decreto all'inizio della prossima settimana. Lo abbiamo ricordato ieri, 80 miliardi, 40 miliardi in realtà sono fondi strutturali europei già stanziati per i prossimi tre anni, già destinati all'Italia, che andrebbero meglio utilizzati, 14 miliardi di altri interventi a sostegno di imprese, famiglie, eventuali aiuti alle banche, 10 miliardi di investimenti di Autostrade per l'Italia che sarebbero a carico del gruppo, della società Autostrade per l'Italia, agganciando l'aumento dei pedaggi agli investimenti effettivamente realizzati, 16 miliardi invece, come ricordavamo, lo sblocco dei fondi CIPE per le infrastrutture. Con due capitoli per quello che riguarda questi 16 miliardi. Un primo capitolo riguarderebbe infatti da 7 miliardi e 300 milioni di nuovi finanziamenti, l'85% dei quali andrebbe al sud, priorità sulla Salerno-Reggio Calabria, 2,7 miliardi, poi il ponte sullo stretto, 700 milioni di euro iniziali, e il raddoppio della tratta ferroviaria Messina-Catania, quasi 2 miliardi. Molti hanno fatto notare che a poco serve fare il ponte sullo stretto, pagare oltre 6-7 miliardi se poi resta il binario unico sulla Messina-Catania. Ancora un secondo capitolo da 9 miliardi e 300 milioni, in gran parte privati, per attuare piani finanziari già definiti nel 2007 e quindi saranno destinati principalmente a opere autostradali. Nel caso specifico la BreBeMi, ossia la Brescia-Bergamo-Milano, 1 miliardo e 600 milioni, e nuove tratte della Brescia-Padova, scusatemi, e quindi della A4, il valore 1 miliardo e 600 milioni, e poi il Mose a Venezia, un altro 1 miliardo di euro. Un primo giudizio sul piano anticrisi, su quello che si è capito del piano anticrisi, è arrivato oggi dal presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Giudizio positivo, anche se ha detto la Marcegaglia, per le imprese e per le famiglie serve di più. Ascoltiamola al microfono della nostra Roberta Pellegatta. Si parla di 80 miliardi che sono fondi sostanzialmente già stanziati, però che in parte dovevano essere già attivati nel 2007 e non sono stati attivati. Quindi ben venga l'idea che vadano su alcune infrastrutture, che vengano spesi velocemente e che non vadano dispersi in mille rivoli. Quindi su questo, anche se non siamo in presenza di nuove risorse, almeno, come dire, utilizziamole al meglio. Adesso, l'importante è che però, soprattutto sulle infrastrutture, non parliamo di soldi che vengono spesi tra un anno, nemmeno tra sei mesi. Noi auspichiamo che vengano spesi nei prossimi mesi, perché se devono avere anche, come dire, un obiettivo anticongiunturale, devono essere spesi subito. Per quanto riguarda la parte sugli ammortizzatori sociali, noi pensiamo che sia essenziale finanziarli in modo forte, in modo che ci sia una presenza, insomma, che tutti quelli che perdono un posto di lavoro possano avere un'integrazione al reddito. Per quanto riguarda quello di cui si sente parlare per il sostegno delle famiglie e delle imprese, non è sufficiente, cioè in un momento di crisi come questa serve di più. Siamo consapevoli, c'è un problema di equilibrio di bilancio, però in questo momento bisogna ridare fiducia alle imprese e alle famiglie. Quello di cui si parla è insufficiente. Quindi auspichiamo e chiediamo che ci sia di più. Noi chiediamo una riduzione dell'IRAP, chiediamo una detassazione, cioè elementi fiscali che possono aiutare subito le imprese, la detassazione degli utili reinvestiti e degli apporti di capitale, perché pensiamo che in un momento come questo le imprese devono capitalizzarsi, e anche una sorta di detassazione sugli utili che vengono investiti in innovazione e in tecnologia. Per le famiglie chiediamo un sostegno al reddito delle famiglie più povere. Quindi crediamo che ci debba essere un pacchetto da varare velocemente subito. E come ho detto prima, crediamo che l'intervento sulle banche vada fatto velocemente. E quindi bene il piano del governo, ma si deve fare di più, nel caso specifico appunto misure fiscali sull'IRAP e detassazione per quello che riguarda le imprese di tutti gli utili che vengano o reinvestiti per aumentare la capitalizzazione, quindi il valore, la solidità finanziaria di un'impresa, o per gli utili che vengono reinvestiti per fare innovazione e ricerca e quindi aumentare la competitività dell'impresa. E poi la parte su famiglie e risparmio. Le infrastrutture sono il nostro tema di oggi, il nostro approfondimento di oggi, perché nel frattempo i costruttori lamentano un meno 14% di investimenti in opere pubbliche prima di questo decreto. Vedremo poi quanto vi sarà varati dalla finanziaria. Il settore ha frenato nonostante ogni attesa, gli investimenti hanno tutti quanti il segno meno. È la prima volta che capita, è la prima volta che il settore delle costruzioni, sia come edilizia privata che come edilizia pubblica, quindi sia come opere infrastrutturali che come case, è la prima volta, dico, in questo decennio che non è anticiclico, che non riesce, diciamo, a fare meglio dell'andamento degli altri settori economici. Allora, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, prima di arrivare ai mercati che comunque hanno chiuso benino, più 0,2 Milano, più 0,5 Francoforte, più 1,1 Parigi, la migliore, assieme a Londra più 1,3%, l'America adesso guadagna in maniera più decisa, l'1,7% sul Dow Jones e lo 0,40% sul Nasdaq. Vorrei restare sul tema delle infrastrutture. E quindi, al di là delle iniziative che prenderà il governo, abbiamo ricordato nella prima parte la tabella di marcia, il primo Consiglio dei Ministri domani, poi il CIPE venerdì, deve sbloccare 16 miliardi, in generale il settore sta soffrendo e non poco. Allora ne parliamo con Paolo Buzzetti, che è presidente dell'ANCE, ossia l'Associazione dei Costruttori dell'Edilizia, 20.000 imprese private del settore ne fanno parte. Buonasera. Buonasera, buonasera Bagioni. Allora, come vanno i vostri dati congiunturali? Voi fino a maggio prevedevate comunque investimenti positivi dell'1%, adesso avete rivisto tutte le stime, l'anno dovrebbe chiudersi con un meno 1,1, ma il CRESM dice addirittura meno 3%, l'anno prossimo meno 1,5, e anche qui il CRESM dice meno 4%. La costruzione di case è calata del 3%, le compravendite del 14%, le opere pubbliche sono calate quest'anno, o dovrebbero calare quest'anno, del 3,7% e del 4% l'anno prossimo, mentre la finanziaria ha tagliato del 14% gli investimenti in opere pubbliche. Vedremo cosa succederà adesso con la parte del piano da 80 miliardi che vede anche la presenza di investimenti in opere pubbliche. Ultimo aspetto, avete avuto anche difficoltà sulle materie prime, perché il prezzo del tondino in acciaio è aumentato del 60%, quello del bitume del 51%. Le chiedo, in tutto questo il mondo bancario registrate segnali di un giro di vite anche nei prestiti e in quello che vi fanno pagare i prestiti? Diciamo che i dati della situazione è evidente, siamo in recessione e molto dipenderà dalle decisioni che saranno prese. L'edilizia ha 2,5 milioni di occupati in Italia, qui sul territorio e non all'estero, e il ruolo anticiclico dell'edilizia è noto a tutti. Innanzitutto è importantissimo il credito alle famiglie, alle piccole e medie imprese. Abbiamo avuto incontri di vertice con le principali banche italiane che ci hanno assicurato di tenere assolutamente e di sforzarsi di tenere la situazione sotto controllo. Questo è il primo punto fondamentale della ricetta anticrisi che noi proponiamo, e che è quello che non ci sia una chiusura dei rubinetti del credito per le piccole e medie imprese. Dopo anni in cui si è invogliato a utilizzare il credito per ingrandirsi dimensioni e fare operazioni, adesso non si possono chiudere i rubinetti creando un problema immediato. Il secondo grande punto, lo diceva lei, si sta sottolineando l'importanza di intervenire nei lavori pubblici, però dobbiamo essere chiari su questo: qui non è che si deve intervenire solo su 3 o 4 grandi opere che non sono in grado da sole di produrre l'occupazione necessaria a rispondere alla crisi. Quello che è necessario è un grande piano infrastrutturale che riguardi anche le opere minori, le opere che nelle città servono di collegamento tra le grandi infrastrutture e il territorio, quelle che risolvono la qualità della vita, e bisogna predisporre questo piano con determinazione. Se è necessario, voglio dire, ricorriamo anche a commissari che controllino l'utilizzo di questi fondi, ma questa è la risposta che crea occupazione nella piccola e media impresa, e che quindi permette di non andare a scenari a breve di grande disoccupazione che altrimenti si verificherebbero. E alcune previsioni sono peggiori dei dati finora dati, perché parlano di una possibilità del 20-25-30% di disoccupazione del settore nei prossimi tempi, nei prossimi mesi, nell'inverno prossimo. Su questo noi siamo molto determinati e molto determinati a far valere la nostra opinione rispetto alle scelte che verranno fatte e rispetto agli 80 miliardi che sono stati promessi. Molto bene il programma del governo sul piano casa, dove ci stiamo impegnando molto, dove anche l'Associazione dei Comuni Lanci, le regioni, il governo, c'è il senatore Mantovani che se ne interessa, e noi stessi stiamo facendo un grande sforzo per vararlo al più presto. Ed è un piano casa per le fasce più deboli del paese: gli anziani, gli immigrati, i giovani, gli affitti. Ecco, noi crediamo fortemente in questa azione anticongiunturale che l'edilizia può fornire, nel rispetto delle regole e delle procedure. Però è stato detto anche dal ministro Tremonti che si possono, in condizioni eccezionali, accelerare i tempi per mettere in gara negli appalti, gli appalti, e creare quindi movimento ed occupazione. Benissimo, noi siamo dell'opinione che questa occasione è un'occasione eccezionale anche per recuperare parte di quel grande gap infrastrutturale che non è solo nelle grandissime opere ma anche nelle medio piccole. Lei ricordava il valore anticiclico del mondo delle costruzioni, dell'edilizia. Alcuni ci chiedono al 349-238-6666 cosa sia. Vuol dire che in sostanza, quando negli anni passati l'economia frenava, pensiamo al 2001, 2002, 2003, l'edilizia era l'unico settore, uno dei pochissimi in positivo, tant'è che se il PIL italiano dal 98 al 2006 è cresciuto del 12% complessivamente, nello stesso periodo il PIL del settore edilizio è cresciuto di quasi 2,5 volte, il 28%. Le chiedo, le soluzioni proposte dal governo sono soluzioni che avranno un intervento, o che voi chiedete al governo, nel breve ma soprattutto nel medio termine? Nel breve voi date ormai per scontata una contrazione l'anno prossimo. noi diamo per scontato, dato per scontato una contrazione, ma guardi, la rapidità l'intensità di questa crisi e la rapidità dell'uscita non è scritta con sicurezza, molto dipenderà dalle decisioni prese. Possiamo assistere in tutto il mondo all'opinione che viene dai governi di investire in opere pubbliche. È noto che le infrastrutture, la spesa di infrastrutture dà un ritorno, 1.028.000 occupati in termini immediati, quindi è la cosa più rapida che c'è. Potremmo recuperare quel ritardo che abbiamo, potremmo cominciare a recuperarlo con tempi brevi. Naturalmente anche l'azione sul piano casa è molto importante, anche le azioni fiscali che il governo vorrà prendere considerando la situazione attuale. Qui serve un grande piano di infrastrutturazione nazionale, anche di opere medio-piccole. Il piano casa, viceversa, il governo lo sta impostando benissimo e lì stiamo andando molto bene per arrivare nel tempo più breve a vararlo. Un'ultima domanda, queste le richieste, Presidente Buzzetti, che voi fate alla classe politica, quindi il piano casa a costo zero, rilanciare le opere infrastrutturali, non solo quelle grandi ma anche quelle medio-piccole, avere qualche agevolazione fiscale, e vedremo su questo che cosa succederà, misure fiscali per gli immobili, per esempio nel caso di affitto, sull'IVA, sull'invenduto. Però al mondo bancario, che pure, va detto con onestà, molto vi ha aiutato in questi anni, quando era facile dare credito, e anche voi come settore, anzi soprattutto voi che avete investimenti onerosi di medio termine, vi siete avvantaggiati di un credito concesso in maniera più facile. Ma al mondo bancario adesso che cosa chiedete? Perché è chiaro che se va a rinegoziare, come noi leggiamo, opere già in corso, opere infrastrutturali già in corso, per cui addirittura alcuni suoi associati preferiscono non andare nemmeno, non presentarsi nemmeno alla gara, pur avendo aderito al prebando, perché dicono tanto non ho i soldi, la banca non mi dà i soldi, oppure se stringono il giro di vite sugli immobili intesi come immobili dei privati, tutto questo poi è chiaro che un danno lo crea. Allora, in grandissima sintesi, innanzitutto noi chiediamo che al regime sia rimpostato un criterio che manca solo per l'edilizia, di revisione dei prezzi dei materiali, che non viene ancora riconosciuto in termini, diciamo, di regime nel tempo e che possono schizzare per motivi internazionali da un momento all'altro per gli appalti. In termini di risorse, di rapporto col mondo bancario, è indispensabile, con interventi del governo e con responsabilità stessa che, a parole, per la verità, gli istituti bancari stanno rappresentando, non si deve chiudere improvvisamente il rubinetto su operazioni che, come diceva lei, si è stati invogliati a fare negli anni passati in un momento di credito facile. Non si può improvvisamente dire scusate, ci siamo sbagliati. Lì è necessaria una grande azione di responsabilità a governo e istituti bancari, perché non manchi il credito innanzitutto alle famiglie, perché altrimenti è da lì che si parte, è da lì che la crisi può gravemente peggiorare, nella paura di tutti, nella paura di non spendere, della mancanza reale del credito alle famiglie. Poi alle imprese medio-piccole, che sono la colonna portante del paese, e questo è il momento di dirsi le cose per come sono, non sono soluzioni di alcune grandi aziende, qui è l'impresa medio-piccola di cui è costituito il nostro tessuto che può rispondere positivamente, ma allora bisogna aiutarla nel credito. Dopodiché, per quanto riguarda le risorse, è chiaro che ne abbiamo poche, però già il governo sta parlando di 80 miliardi da poter mettere in campo. Poi nel campo delle opere pubbliche noi abbiamo delle interessanti proposte di eventuali bond, che siano europei, che siano nazionali, di sottoscrizione, diciamo, ai fini di fare opere pubbliche, in cui il cittadino viene ripagato con interessi pari a un bot, anche un po' più del bot, e nello stesso tempo però questi soldi sono convogliati precisamente sulle infrastrutture, che si potrebbero aggiungere alle risorse che il governo con la Cassa Depositi e Prestiti può mettere in campo. E come ricordava bene lei, il piano casa per le fasce più deboli si può fare con l'azione delle regioni e dei comuni anche assolutamente a costo zero, nel senso che basta la garanzia che venga data, diciamo, dalla Cassa Depositi e Prestiti e dallo Stato sui tassi da applicare sui mutui trentennali, ma si può veramente fare con pochissima spesa di denaro pubblico. Quindi sono soluzioni che noi riteniamo possano essere prese il più presto. Beh, a questo punto in bocca al lupo innanzitutto agli imprenditori che lei come Presidente dell'Associazione Nazionale dei Costruttori dell'Edilizia rappresenta. poi vedremo che cosa si riuscirà a fare. C'è già, come anche lei ricordava, una parte abbastanza infrastrutturale. Bisogna capire poi nel piano, diciamo, di aiuto e sostegno all'economia, bisogna capire poi i tempi, perché attenzione se le opere sono bloccate o se i tempi sono di 3, 4, 5 anni invece che 2 anni o un anno, alla fine l'effetto economico ce lo perdiamo. Grazie comunque al Presidente del Lancio Paolo Buzzetti. Grazie a lei. E adesso stiamo andando in informazioni per chi è in viaggio. Vedo che molti messaggi uniscono i prezzi raggiunti dagli immobili in questi anni con le richieste dei costruttori. È parzialmente scorretto come ragionamento, non sempre chi costruisce poi chi vende, attenzione, poi ci sono le società di intermediazione. È chiaro che i prezzi sono cresciuti, in alcuni casi sono cresciuti troppo. Sulla qualità degli immobili, anche lì inviterei a non fare tornare buon fascio. Sicuramente esistono costruttori che garantiscono maggiore qualità e invece costruttori che utilizzano e hanno materiali più scadenti, però andrei a distinguere. Il problema invece, a mio avviso, non si pone sulle opere infrastrutturali, perché quelle servono e basta al paese. Allora, ultima parte del programma, la borsa, e lo diceva Ben Bernanke, per la precisione, il presidente della Federal Reserve. La situazione sui mercati si sta calmando, speriamo che non si becchi il gufo dei prossimi anni, dei prossimi mesi di questo programma, però insomma anche a noi modestamente sembra che rispetto alle settimane di passione di ottobre e anche di inizio novembre le oscillazioni, ecco, siano in un corridoio più stretto, più 0,2% Mibtel e S&P Mib, più 1,1 Parigi, più 0,5 Francoforte, più 1,5 Londra, più 1,8 l'America, più 0,6% il Nasdaq, euro a quota 1,2677 nei confronti del dollaro. I titoli peggiori e migliori, come sempre, li commentiamo con Radio Cori con le 24 ore. Radio Cori, Sole 24 ore. Paolo Paronetto, buonasera. Buonasera a tutti. Scusami la crasi. Allora, bene in pregilo, visto che abbiamo appena parlato con il presidente del Lance e prima ancora abbiamo sentito la presidente Marcegaglia e il presidente del Consiglio Berlusconi, gli investimenti, il piano anticrisi, famiglie ma anche imprese, la fetta grossa, una fetta consistente andrà alle infrastrutture, per questo che in pregilo guadagna il 6,5%. Sì, certamente, gli operatori segnalano che oggi il titolo ha beneficiato per tutta la seduta, infatti è stato uno dei pochi positivi fin dall'avvio, dei 16,16 miliardi stanziati dal governo per le opere infrastrutturali proprio nell'ambito del piano di sostegno all'economia, e il 21 novembre è in programma la prima riunione del CIPE, che dovrebbe anche, insomma, dare più dettagli sulla destinazione di questo denaro, di questi finanziamenti, e quindi ci si aspetta un avvio di opere pubbliche di cui in pregilo potrebbe sicuramente beneficiare. Quindi il titolo ha guadagnato il 6,53% chiudendo a 2,16 euro. C'è anche da dire che in pregilo è uno di quei titoli su cui nelle ultime settimane si è un po' addensata la speculazione, le ipotesi sull'ingresso di capitale da parte di fondi esteri, in particolare di quelli della Libia. Allora, alcuni ci scrivono che quello che sta capitando è quello che aveva predetto la nostra astrologa, e vabbè, vedo che ha avuto molto successo l'astrologa, sicuramente gode di minori antipatie rispetto a certi analisti e operatori di banca che davano tanti bei giudizi mentre la loro banca sotto i piedi svaniva. Mediaset e altri titoli, Eni, Telecom, le banche. Allora andiamo con ordine, per quello che riguarda Mediaset più 2,6, Eni più 2,9. Sì, Mediaset oggi ha beneficiato delle parole di Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente della società, che ha detto che per il momento non vede alcun motivo per tagliare il dividendo, ha anche aggiunto che è presto per dire se sarà confermato i livelli dell'anno scorso, ma comunque in una fase in cui sono più le società che o azzerano o comunque mostrano particolare prudenza sul fronte della remunerazione agli azionisti, le parole di Berlusconi hanno un po' rasserenato il mercato sul fronte Mediaset, che è stato oggi premiato dagli acquisti con un rialzo di circa il 2,6%. Per quanto riguarda l'Eni, Oggi il titolo è stato sostenuto da due fattori, in particolare in primo luogo il rincaro del prezzo del petrolio che nonostante la volatilità al momento è in rialzo ed è sopra i $55 al barile, e secondariamente oggi è arrivata, secondo indiscrezioni raccolte della nostra agenzia, è stato collocato un bond quinquennale da 1,25 miliardi e inoltre insomma la domanda sarebbe superiore ai 2 miliardi, quindi il segno che sul mercato viene apprezzata la solidità di Eni, e quindi anche in una fase difficile per le emissioni obbligazionarie il prestito ha successo, ha sostenuto il titolo. Allora, questo per quello che riguarda i due titoli. Telecom Italia, bene più 2,6. Sì, su Telecom intanto cresce l'attesa per il 2 dicembre quando sarà presentato il piano industriale, inoltre oggi è uscita qualche novità sul fronte del piano di separazione o comunque delle nuove norme sulla rete infrastrutturale, in particolare il presidente dell'Authority per le comunicazioni Corrado Calabrò ha annunciato che il nuovo documento che contiene gli impegni di Telecom sulla separazione della rete sarà esaminato dal Consiglio il 26 novembre, quindi c'è qualche dettaglio concreto su questo progetto, il mercato si aspetta novità e ovviamente in questa fase il titolo è stato premiato con un rialzo anche qui di circa il 2,6% sopra un euro a 1,032. Allora un piccolo inciso, di solito è brutto dirlo ma è sempre successo così, negli anni passati quando una banca o un gruppo annunciava migliaia di licenziamenti il titolo in borsa andava molto bene, è cinico, è brutto, però il ragionamento che facevano gli operatori è bene, se licenzia vuol dire che migliorerà i suoi conti. L'effetto che ha avuto invece l'annuncio di ieri di Citigroup, ossia 50.000 persone a casa, ed è un dato terrificante anche perché, come ricordava oggi Alessandro Praterotti nel corso di Extra Large, sono già 200.000 in America i lavoratori del settore finanziario e bancario che hanno perso il posto di lavoro, che perderanno il posto di lavoro per certo. Il settore bancario non ha reagito bene, nel senso che Paolo è stata letta più come una conferma delle estreme difficoltà del colosso bancario americano che non come una via, per quanto sanguinosa e voglio dire e sofferta, verso un risanamento del gruppo, perché vedo che Unipol oggi perde il 4,6, la Popolare di Milano il 4%, Alleanza il 3,80, Unicredito meno 3,5 e Monte dei Paschi meno 2,6%. In una battuta, come mai secondo te? Sì, anche Citigroup a Wall Street sta perdendo circa il 5%. Sì. Beh, come dicevi tu, è tutto da inquadrare nel contesto in cui questo annuncio è avvenuto. Non si tratta infatti di una ristrutturazione che potrebbe essere accolta positivamente come taglio dei costi, ma vista la situazione viene preso come un ulteriore segnale dello stato di difficoltà dell'intero comparto bancario e soprattutto come un possibile segnale che non tutto sia già uscito non dai tutto bilanci. Sia già uscito. C'è ancora qualcosa. Grazie Paolo Paronetto. Dunque, Enrico Pagliarini, che cosa capiterà adesso che chi si era opposto fermamente alla fusione con Microsoft si è dimesso? Cosa capiterà a Yahoo? Dunque, molto probabilmente arriverà questo accordo o questa vendita a Microsoft. Diciamo anche che in questa vicenda pesate, qua poi colleghiamo questo nome che vi dirò a Microsoft, Carl Icahn, che è un miliardario che ad un certo punto è entrato in questa vicenda dicendo qua bisogna finire con questo battibecco tra Yahoo e Microsoft e bisogna vendere a Microsoft. Quindi uscito di scena Jerry Yang, probabilmente e molto probabile che arrivi un accordo con Microsoft spinto da questo miliardario che ormai ha il 5% delle azioni e durante l'estate è entrato nel board, nel consiglio di amministrazione, grazie appunto all'acquisto massiccio di azioni degli ultimi mesi. Dicevo, è uscito di scena il principale, la persona che si contrapponeva insomma un po' tutto il board, e possiamo anche ricordare un po' il carattere di questo uomo. Dicevamo prima che era uno studente, e dobbiamo anche ricordare insomma la forte rivalità che c'era tra gli studenti e tra poi i fondatori delle dot-coms. Il Microsoft non è un big nel mondo di internet, ma sicuramente è un colosso nel mondo dell'informatica. Una forte rivalità. E una delle ultime domande che è stata fatta a Jerry Yang il 5 novembre, possiamo ascoltare un'intervista del 5 novembre, è stata fatta proprio sul suo forte ego. Sentiamo questo passaggio di 10 secondi. People who know me will know me that I don't have an ego about remaining independent versus not remaining independent. I think that's a surprising statement to me. Okay. Well, it is true because I think for me, I think that Ecco, avete sentito l'intervistatore ha detto, beh, questo mi sorprende che lei dica qui davanti a tutti noi che lei non abbia un forte ego, perché questo è stato uno dei motivi che molti hanno utilizzato per accusare Young di aver detto di no a Microsoft per tanto tempo. Quindi, certo, se la mettessimo sull'ego, poi anche a casa nostra, in tutti gli ambienti di lavoro, a chi non ha un ego, un forte ego, scagli la prima pietra, ma non voglio colpire il tecnico di regia. Grazie Enrico Pagliarini, e adesso cambiamo tema, ultimo tema, e mi riferisco ai dati diffusi oggi sull'export. Sono dati relativi a settembre, e quindi mese in cui la crisi non era scoppiata, o meglio aveva appena iniziato a sviluppare i suoi effetti. Comunque, se sale il nostro deficit a 2,6 miliardi, va bene invece il nostro commercio, soprattutto con l'Europa. A settembre, per carità, le esportazioni sono aumentate dell'8,6% complessivamente, e le importazioni di quasi il 12%. Ma se si guarda l'Europa, che vale da sola metà più o meno del nostro export, ebbene, sono migliorate, tant'è che il saldo è attivo ed è anche migliore rispetto a quello del settembre 2007, 690 milioni di euro di saldo attivo rispetto a 600 milioni di un anno prima. Esportazioni più 6%, importazioni più 5,4%, molto bene. Alimentari più 17%, elettronica più 8%, siderurgia più 14%, chimica più 8%, meccanica più 4%, mezzi di trasporto più 5%. E molto bene in Germania, più 9%, in Francia più 6%, in America più 3% il nostro export, in Giappone più 2%, in Russia più 9%, e meno bene invece in Gran Bretagna, meno 7%, come in Cina, meno 7%, in Spagna, meno 9,5%. Professor Marco Fortis, docente di economia industriale alla Cattolica di Milano, vicepresidente della Fondazione Edison, buonasera. Buonasera. Allora, in 4-5 minuti, lei è stato ospite nostro molte volte, io lo dico ogni volta, non ho problemi a ribadirlo anche questa volta, è una delle persone che meglio conosce i numeri veri sulle esportazioni. Fermo restando che il dato di settembre, che se poi frena tutta l'economia mondiale, è difficile che noi si possa continuare a esportare a questi livelli, ma che commento e che analisi possiamo trarre da questi dati? Beh, possiamo dire che sicuramente fino a settembre l'economia italiana è riuscita a esportare a tassi molto interessanti e importanti, non solo verso l'Unione Europea ma anche verso i paesi extra-UE, perché il dato precedente di settembre per questi paesi era addirittura più 13%. Ciò dimostra che la coda degli ordinativi che eravamo riusciti a acquisire grazie a una cresciuta competitività in moltissimi settori è continuata fino praticamente all'ultimo minuto prima che cominciasse questa grave crisi mondiale. Quindi fino all'ultimo respiro, per citare il mondo cinematografico. Però a lei che cosa ha sorpreso di più in positivo e anche in negativo, anche all'interno dei settori e dei paesi che ho appena citato? Già una netta differenza si delineava già nei mesi precedenti tra i paesi che per primi sono stati colpiti dalla crisi finanziaria e immobiliare, in particolare la Gran Bretagna e la Spagna, i cui mercati per le nostre esportazioni erano già in calo da diversi mesi. Quindi si è confermata una tendenza della gravità della recessione che sta colpendo questi paesi. Ieri abbiamo sentito anche la Confindustria della Gran Bretagna che addirittura ha previsto un calo del PIL inglese dell'1,7% per il prossimo anno, quindi un dato veramente, una terribile mazzata per la Gran Bretagna. Ma non è che la Spagna se la passi meglio, basti pensare che nel giro di un solo anno il tasso di disoccupazione è aumentato quasi di 4 punti, sfiorando il 12%. Quindi su questi mercati ci sarà ben poco da vendere nei prossimi mesi. Purtroppo anche la Germania, che fino all'ultimo ha tirato bene, anche la Francia, inevitabilmente rallenteranno nel corso di questa crisi. E quindi anche lei è d'accordo nel ritenere che sarà inevitabile un peggioramento a questo punto? Beh, un peggioramento è sicuramente inevitabile. Cioè, nonostante il petrolio a ottobre già viaggiasse ampiamente sotto i $100? Beh, diciamo che due sono gli aspetti. Uno è quello del saldo della bilancia, che paradossalmente potrebbe persino migliorare un po' man mano che il petrolio si stabilizzerà, sia pure temporaneamente, a mio avviso, su valori piuttosto bassi, quindi facendo abbassare il costo della nostra bolletta energetica. Poi la stessa Italia andrà in recessione, quindi anche le importazioni di materie prime semilavorate diminuiranno. però indubbiamente il colpo che anche il nostro export dovrà subire nei prossimi mesi sarà importante. Alcuni mercati potrebbero tenere forse un po' meglio. Abbiamo visto per esempio in settembre che ancora i mercati della cintura dell'est europeo andavano piuttosto bene, purtroppo questi sono stati colpiti, come ben sappiamo, da gravi crisi finanziarie. Ungheria, Polonia sono paesi che devono essere soccorsi in questo momento dal punto di vista finanziario dal sistema internazionale. Rimane la Russia che, avendo a disposizione la risorsa del petrolio e del gas, secondo me potrebbe rappresentare nei prossimi mesi minimo fattore di tampone a una caduta generale dei mercati esteri. Per quanto anche in Russia la situazione non sia eccellente, oggi Medvedev ha detto che la crisi costerà almeno 150 miliardi di euro alla Russia, ossia 5.000 miliardi di rubli. Grazie a Marco Fortis, docente di economia industriale della Cattolica di Milano, vicepresidente della Fondazione Edison. E adesso ci avviamo alla conclusione per quello che riguarda le notizie. Devo leggervi un paio di notizie appena battute dalle agenzie. Vi sarebbe, secondo la Corte dei Conti, un buco dovuto ai condoni fiscali, quelli della finanziaria 2003 e quelli dell'allora attuale Ministro dell'Economia Tremonti. Perché? Perché la raffica dei condoni fiscali, che doveva portare 26 miliardi nelle casse dello Stato in base alle dichiarazioni di condono presentate, secondo la Corte dei Conti invece mancano l'appello 5 miliardi e 200 milioni di euro. Per quello che riguarda invece una nota a cavallo tra giudiziaria e economia, l'assessore fiorentino Gianni Biagi e anche Graziano Cioni, assieme all'imprenditore Salvatore Ligresti, sarebbero sospettati del reato di corruzione in concorso assieme ad altri dirigenti del gruppo nell'ambito di un'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Firenze sullo sviluppo urbanistico dell'area di Castello, di proprietà di Fondiaria Assai. Questa riporta l'ANSA di qualche minuto fa. Abbiamo avuto una puntata in cui abbiamo iniziato dicendo che anche secondo il numero uno della Federal Reserve, Ben Bernanke, la situazione sui mercati sembra essersi tranquillizzata, parrebbe così anche a noi, i dati sull'export di settembre non sono così malvagi. Devo dire che adesso, ultima agenzia che vi leggo di pochi istanti fa, il Fondo Monetario Internazionale dice nei prossimi sei mesi la situazione nei prossimi sei mesi vi sarà un probabile peggioramento della situazione finanziaria ed economica mondiale. Siccome insomma, ci sembra una notizia così che raggela una puntata più cautamente tranquilla rispetto ad altre, al Fondo Monetario Internazionale va il nostro gufo. E allora buona serata, nonostante il Fondo Monetario Internazionale, nonostante il nostro gufo, andiamo a chiudere e concludere questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'augurio di una buona serata, vi lascio alla nostra programmazione.